Senti là che ascolti al buio un disco di Billy Holiday. E lo so che al buio maledici ogni tua lacrima. Non so più che cosa è stato mai un giorno a dividerci. E dov'è che abbiamo smesso di essere complici? Tutto qui di mari e monti, di promesse e favole, facendo i conti non restano che briciole. Un pugno vuoto che colpisce quando non te l'aspettavi, dove non credevi. Eccomi, tirando indietro il mondo che hai dipinto tu. Giocaci e in scena per un altro il tuo spettacolo, perché tutto finisca in un applauso che non ti farò io. Ragionevole di credere, l'assurda debolezza di decidere che nonostante tutto è ancora insieme a me, che il cielo chiede di vederti ancora. Eccomi, rendimi indietro il mondo che hai dipinto tu. Spettacolo per me che non ho altro che un applauso per non farti dire addio, addio.